Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Città Fujiko. Oggi presentiamo il corso di formazione nazionale in giornalismo imprenditoriale e nuovi linguaggi. E io ho il piacere di parlarne appunto con Laura Corallo, che è anche promotrice appunto del corso, appunto oltre che giornalista. Ecco, benvenuta Laura. Grazie, grazie e buon pomeriggio. Allora, innanzitutto le informazioni fondamentali, quindi in che cosa consiste il corso e quando ci si potrà iscrivere e si potrà partecipare al corso? Il corso di giornalismo imprenditoriale, comunicazione e nuovi linguaggi è il primo corso nazionale di giornalismo imprenditoriale in Italia e partirà a settembre con scadenza delle iscrizioni a luglio. E questo è un corso molto interessante che proprio dà una risposta alla trasformazione e ai cambiamenti del lavoro del giornalista di oggi. Il giornalista del futuro, ma in generale chi si occuperà di comunicazione, avrà bisogno di strumenti trasversali molto ampi, che non riguardano soltanto, diciamo, i contenuti e la forma, ma soprattutto il come fare le cose, quindi il lavoro in sé. Diciamo, ciò che distingue questo corso da tanti altri è appunto l'aspetto imprenditoriale, cioè le competenze, gli strumenti per creare attività lavorative, professionali, imprenditoriali, quindi dal punto di vista finanziario e economico. Quindi un corso che collabora appunto con l'Università di Modena appunto e Reggio Emilia, e ti chiedo come e quando iscriversi. Ci sono dei recapiti, dei contatti per potersi iscrivere? Per informazioni e contatti riguardo al programma, potete cercare anche informazioni nel sito professionegiornalista.com e al sito della Fondazione Marco Biagi. Ora appunto ascoltiamo l'intervento di Antonella Cardone, che è giornalista e direttrice del quotidiano Sul Panaro, oltre che consigliere nazionale dell'Ordine appunto dei giornalisti, è qui in collegamento telefonico perché è una delle docenti appunto del corso. Ricordo, è un corso online ed è un corso aperto a tutti, sia per giornalisti che anche per chi appunto lavora nel mondo della comunicazione e vuole conoscere ancora di più. Quindi proprio su questo ti volevo chiedere quali sono gli obiettivi del corso. L'obiettivo è dare una serie di strumenti deontologici, tecnici, professionali, sia a chi questo mestiere lo fa da tempo, sia a chi ci si affaccia solo adesso, sia a chi è un giornalista professionista iscritto all'ordine, oppure semplicemente chi si occupa di comunicazione e perché no, anche di marketing e i cosiddetti influencer. Noi cerchiamo di spiegare cosa sta succedendo nel mondo del giornalismo e della comunicazione, in cui noi vediamo come online la richiesta di informazioni di qualità è alta, perché noi abbiamo circa 37 milioni di utenti unici in Italia. Quindi la gente cerca comunicazione, siamo noi che dobbiamo offrire un prodotto giornalistico, comunicativo, di qualità e soprattutto utile. E proprio di questo noi andiamo a parlare, perché noi parliamo, sì, è vero, di digital journalism, quindi le tecniche, le pratiche di scrittura, l'editing, il SEO, ma parliamo anche di giornalismi tecnici specializzati, di strumenti per la gestione di un'attività autonoma, professionale e freelance. E poi ci addentriamo anche in un canale solitamente negletto dai giornalisti, che sono quelli dei corporate blog, che sfociano nel marketing, ma un marketing fatto con la professionalità e l'odontologia di un giornalista è la risposta che anche le aziende private possono provare a mettere in campo per avere successo in un mercato così competitivo. Poi il corso si svolge da settembre a dicembre ed è online, quindi anche la capacità di fruirne per chi lavora è più facile, è più semplice. Io mi chiamo Andrea, sono Michael Vogt, sono il CEO di Novando GmbH, un'agenzia di comunicazione e una media company che è situata in Svizzera, nell'Appenzello Interno. Io ho attraversato in prima persona il passaggio da blogger a giornalista, fino a fondare un giornale indipendente che si chiama Innovando News. Posso dire che il giornalismo oggi non basta a se stesso. Oggi fare giornalismo non significa solo saper scrivere bene, Significa sapersi muovere in un contesto complesso dove servono competenze imprenditoriali, visione strategica, capacità di progettare un modello di sostenibilità, e per cui diventa importante la formazione imprenditoriale, è molto importante. Quindi saper progettare, saper gestire un progetto editoriale, che cos'è un progetto editoriale, conoscerne le dinamiche di mercato, quindi anche tutte le questioni che riguardano la finanza, la fiscalità, e tutto questo non è oggi un extra, è parte proprio del mestiere, serve per garantire la libertà e la qualità e soprattutto la continuità delle informazioni. Quindi occorre una spinta ispirazionale piuttosto importante. Il giornalismo oggi, il giornalismo moderno, ha bisogno di menti lucide, ha bisogno anche di persone che sappiano camminare con le proprie gambe, che sappiano essere indipendenti, e quindi chi investe oggi su se stesso costruisce anche le fondamenta per diventare un punto di riferimento per il domani.